Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito e Marianna Stefanucci. Certe amicizie sono così forti che sembrano amori mancati. Sono rapporti che possono essere brevissimi, ma lasciare una traccia indelebile, oppure che durano, tra momenti di avvicinamento e altri di allontanamento, un'intera vita. La storia che raccontiamo oggi a Destini Incrociati parla di un incontro tra un uomo e una donna che non riguarda solo i due interessati, ma l'intero mondo della cultura e del cinema. È uno dei grandi incontri del Novecento e quindi riguarda anche noi. Il nostro primo protagonista è Luchino Visconti. Luchino Visconti. Uno dei più grandi registi del realismo italiano. Profilo importante, sguardo magnetico, sopracciglia folte e sigaretta sempre in bocca. Luchino Visconti è un uomo molto affascinante che ha conquistato decine di cuori e ammaliato generazioni di donne. Non ultima, Suso Cecchi d'Amico, la sceneggiatrice italiana che l'ha accompagnato nel corso di tante avventure. Ne avevo già sentito parlare molto. Era molto bello, era molto fascinoso, mi piacque moltissimo e diventammo subito amici. La cosa è stata molto semplice. Visconti è uno dei grandi maestri italiani e con il suo primo film, Ossessione, del 1943, è balzato immediatamente nell'Olimpo del cinema internazionale. La pellicola, tratta dal romanzo Il postino suona sempre due volte di James McCain, parla di una donna sposata con un uomo più vecchio di lei, che induce un giovane vagabondo di cui è diventata l'amante a uccidere il consorte in un incidente automobilistico truccato. Ora sono certo di volerti bene, Giovanna. Ma dobbiamo andare via di qui. Per sempre, subito. Andremo via. Era impossibile non sbagliare. Con tutto quello che abbiamo passato, Gino. D'ora in poi, quando ti dico di non andarmi retta, tu avevi ragione. Non parlare più. Non ti ho detto che tutto è cambiato. Il protagonista è Massimo Girotti, mentre la parte della protagonista, interpretata da Clara Calamai, doveva essere originariamente di Anna Magnani, che però all'ultimo momento ha lasciato il ruolo perché è incinta del suo unico figlio Luca. Ossessione non è solo il memorabile esordio di Visconti, è qualcosa di più di un film, una bandiera, un manifesto, un simbolo, che per i critici ha aperto la strada al neorealismo, quel movimento culturale che si è sviluppato in Italia tra l'inizio degli anni 40 e la metà degli anni 50, e che si è espresso soprattutto nella narrativa e nel cinema. Un momento eccezionale e punto di riferimento costante per tutti i grandi cineasti delle generazioni successive, tra gli altri Ermanno Olmi. Era un cinema che voleva farci riconoscere nella realtà in cui ci dovevamo riconoscere. Il cinema neorealista è caratterizzato da trame ambientate soprattutto fra le classi disagiate e lavoratrici, con lunghe riprese all'aperto, il tutto con l'intenzione di raccontare la verità. Per questo motivo utilizza spesso attori non professionisti, sia per parti secondarie che per ruoli primari. Olmi lo considera un fenomeno senza precedenti. Era il momento in cui si segnava una netta linea di demarcazione fra il grande cinema americano della commedia, dell'avventura, come dire, proprio del sogno a 200 lire due film, ecco, con il cinema che ci racconta e nel quale noi ci riconosciamo. Dimmi che illusione non è, dimmi che sei tutta per me. Quando Visconti gira Ossessione è il 1943, siamo nel pieno della guerra che spacca in due l'Italia. La condizione della gente è disperata, povertà, desolazione, morte. E nel dopoguerra, con tutti gli strascichi di un periodo sanguinoso, la situazione non migliora affatto. Non è facile fare film, anche per problemi molto concreti. Cinecittà, il complesso di studi cinematografici che dall'aprile del 1937 era stato il centro della produzione cinematografica italiana, adesso è occupato dagli sfollati ed è necessario cominciare a lavorare in esterna. Ma al di là di tutto, c'è un'urgenza che Luchino Visconti sente bruciare dentro di sé. Noi dobbiamo porci in un'attitudine morale di fronte agli avvenimenti, alla vita. In un atteggiamento, insomma, che ci consente di vedere con occhio limpido, critico, la società così come è oggi e raccontare fatti che di questa società sono parte. Di certo non si può prescindere dalla letteratura. Può sembrare un paradosso, ma leggere le pagine di altri è fondamentale per conoscere sia se stessi che il mondo. I libri sono il tradizionale veicolo di storie e una straordinaria fonte di ispirazione per i grandi scrittori, come Suso Cecchi d'Amico, indispensabile sceneggiatrice di Visconti. Se si parlava delle nostre letture, si scambiavano le letture, eccetera, per cui ci siamo conosciuti attraverso gli interessi, diciamo, culturali comuni. E infatti quando i media ricordano Visconti, non dimenticano mai di fare un cenno al suo amore per la cultura, che è stato così importante per creare i suoi grandi capolavori. Luchino legge di tutto, è un vero onnivoro, ma soprattutto predilige i testi classici europei. Luchino Visconti arriva al cinema attraverso un percorso personale che mette insieme teatro, letteratura e musica. Ma da dove è partito questo percorso? Come ha iniziato Luchino Visconti? Come ha fatto a diventare uno dei massimi maestri del cinema mondiale? Per scoprirlo, dobbiamo fare qualche passo indietro. Siamo a Milano, nel 1906. Il capoluogo lombardo è come nelle vecchie cartoline in bianco e nero che si trovano adesso sulle bancarelle dei mercatini. Nessuna automobile in giro, soltanto tram e carrozze trainate da cavalli. Agli angoli delle strade si fermano ogni tanto gruppi musicali improvvisati che vivono di espedienti, mentre i negozi in galleria Vittorio Emanuele sono già elegantissimi. Sta nascendo la modernità. Ci si porta dietro i primi manifesti pubblicitari, come quello del Campari, che cominciano ad apparire sui muri di tutte le grandi città. Le donne lavano i panni nel naviglio, che è ancora navigabile, e poi li stendono sui balconi che danno sui cortili delle case di ringhiera, mentre d'abitudine sono solo gli uomini che possono mettere piede ai caffè storici. È la Milano che vive nelle canzoni in dialetto, di quella tradizione che continua con Nanni Svampa, Giorgio Gaber ed Enzo Iannacci. Ma mi veri quinta, non mi amis, che ne randa fa il bagn, sul strado, per andare all'idroscalo, l'era lì, e l'amore lo colpì, e il portavi scarpe tennis, e il parlava del perlù. Luchino Visconti nasce in una famiglia aristocratica. È il quarto di sette figli del duca Giuseppe Visconti di Modrone e di Carla Erba, proprietaria della più grande casa farmaceutica italiana. Fin da bambino frequenta il palco di famiglia del Teatro alla Scala, di cui alcuni suoi avi sono stati tra i fondatori e di cui suo padre è grande finanziatore. Mi piaceva vestirmi elegante e andare a vedere i grandi melodrammi. Mi ricordo mia madre che piangeva sempre e mio padre che ogni volta la prendeva in giro, ma aveva pronto in tasca un fazzoletto da offrirle. Il teatro influenza moltissimo la sua formazione, lo ama fin da piccolo e lo amerà per tutta la vita. Nello splendido palazzo in cui abita, organizza recite con gli amici e si improvvisa scenografo. Tra l'altro, diventa un violoncellista di buon livello, cosa che rende molto felice la sua famiglia, abituata a frequentare musicisti del calibro del direttore d'orchestra Arturo Toscanini. Ma la sua è una gioventù irrequieta. Studia al liceo classico Berchet, ma viene bocciato al ginnasio. È l'imposizione all'ubbidienza che contesta, non le materie. Io leggevo moltissimo e a volte mi annoiavo perché sapevo già quello di cui si parlava. All'idea di stare fermo, seduto, con un professore che senza passione spiegava il verismo, non ce la facevo e scappavo. Verga è uno degli amori letterari di Luchino. Legge e rilegge Mastro Don Gesualdo, Storia di una capinera e tutte le novelle. Ma il suo libro preferito in assoluto è I Malavoglia. L'attore Omero Antonutti dà voce al pensiero di Visconti interpretando i suoi scritti. Con la testa piena di questi pensieri girando un giorno per le vie di Catania e percorrendo la piana di Caltagirone, in una mattinata sciroccosa mi innamorai di Giovanni Verga. Nantonica si trase dentro l'ossa, peccatori rinunciati e ripiccati della carne, quando diavolo s'appaccia rafforzate via mutanna, quando attacchio della chiesa si posteggia un macchinone, scennisario branchia detto Ralleone, padre Coppola balbette a mocchia l'omelia con tre parole, perché sua maestà sappa la comunione. Luchino Visconti scappa spesso da scuola e riesce a finire il liceo dopo un percorso fatto di risultati alterni. Ma è perché ha in mente altro: il teatro e i cavalli. Infatti, per dare sfogo alla sua passione, progetta e costruisce a San Siro, nella zona in cui ora sorge lo stadio di Milano, una scuderia modello e si dedica con successo all'allevamento di cavalli da corsa. Conduce una vita agiata, fatta di raffinatezze e amori impossibili come quello per la cognata. Ma il primo vero cambio di rotta è degli anni 30, quando è un giovane a caccia di stimoli e si trasferisce nella città più magica d'Europa. Siamo a Parigi, la capitale francese che è nel suo pieno splendore. Mentre negli altri paesi si stanno facendo strada i più pericolosi totalitarismi che preparano il terreno per la Seconda Guerra Mondiale, Parigi ne è immune e si può dedicare alla leggerezza, all'arte, alla cultura. Un'aria del tutto nuova per Luchino. Mi piaceva perdermi tra le strade, fermarmi a leggere su una panchina. A Parigi c'era una sorpresa dietro ogni angolo, un nuovo sapore, un nuovo profumo, un nuovo amico. L'illuminazione a gas dei lampioni Liberty ereditati dalla Belle Époque, i bistrot che ancora oggi riescono a resistere all'avanzata dei fast food, la Tour Eiffel, il cui valore artistico è continuamente messo in discussione dai parigini. E poi gli Champs-Élysées, i pittori di Montmartre, le chiatte sul canale Saint-Martin e i divertimenti di Pigalle, il quartiere malfamato ed eccitante di prostitute e gioco d'azzardo, il quartiere in cui sorge il mitico Moulin Rouge, dove è nato il tradizionale e mai dimenticato Cancan. Il cancan divenne un ballo simbolo, allegria e lussuria, spensieratezza e perdizione. Di Parigi, diceva lo scrittore Julian Green, si dovrebbe parlare al plurale, come i greci parlavano di Atene. Perché più di altre, Parigi è una città mondo. Anzi, come diceva Balzac, il più delizioso dei mostri. Là bella donna, più in là vecchia e povera. Qui nuova nuova come la moneta di un nuovo regno. In quell'angolo elegante come una signora alla moda. Visconti, esperto conoscitore di musica, va a sentire Stravinsky e Ravel, che ha debuttato nel 1928 all'Opéra con il suo Bolero. Ogni giorno c'era qualcosa da fare. Parigi era il cuore pulsante della cultura europea, forse mondiale. Gli intellettuali avevano libertà di pensiero e potevano esprimere come volevano la loro arte. Ma soprattutto è qui che Luchino si appassiona al cinema. Il pomeriggio gli piace infilarsi il cappotto e andare nella sala sotto casa, di solito mezza deserta, a guardare le proiezioni seduto su una poltroncina di velluto mentre fuma una sigaretta. I film sono pochi e cambiano una volta ogni tanto. Ma questo non è un buon motivo per non andarci, come ricorda la sceneggiatrice Suso Cecchi D'Amico. Non vedevamo mai una volta sola uno spettacolo. Cioè, entravamo al primo spettacolo e si restava lì finché sentivi Suso, Susino! Mamma, che impressionata, non ci aveva visto tornare a casa. Di cinema Luchino parla nei caffè letterari che frequenta, con gli intellettuali che sono i suoi amici, lo scrittore André Gide, futuro premio Nobel nel 1947, Leonard Bernstein, musicista e compositore noto al grande pubblico per aver composto il musical West Side Story, e Jean Cocteau, l'eclettico poeta, romanziere, attore e regista. È in questo momento che Visconti comincia piano piano a pensare che il cinema per lui possa diventare qualcosa di più di una semplice passione. La vocazione non esiste, ma esiste la coscienza della propria esperienza, lo sviluppo dialettico della vita di un uomo al contatto con gli altri uomini. Penso che solo attraverso una sofferta esperienza, quotidianamente stimolata da un affettuoso e obiettivo esame dei casi umani, si possa decidere che il cinema è il modo giusto per raccontare la vita. Bien sûr, il y a les guerres d'Irlande et les peuplades sans musique. Bien sûr, tout ce manque de tendre et il n'y a plus d'Amérique. Bien sûr, l'argent n'a pas d'odeur. Destini incrociati. A Destini incrociati siamo a Parigi e sono gli anni 30. La Ville Lumière è il fulcro della vita intellettuale europea e si respira ovunque, nei teatri, per strada, nei caffè, quella libertà di pensiero essenziale per la creatività. Non è un caso se proprio a Parigi, in piena Belle Époque, per la precisione nel 1895, i fratelli Lumière hanno mostrato al pubblico per la prima volta l'apparecchio da loro brevettato, il cinematografo. Al Grand Café des Capucines hanno proiettato su uno schermo bianco una sequenza di immagini distinte, impresse su pellicola stampata con un processo fotografico, in modo da creare l'effetto del movimento. Non hanno capito subito però il potenziale di questo strumento, che poteva essere usato non solo per i documentari, ma anche per divertire. Lo sa bene invece Luchino Visconti, che passa le sue giornate al cinema. Ad affascinarlo, oltre alle storie, è tutto il mondo che ruota intorno a questo mestiere, a partire dagli attori, alcuni dei quali frequenta personalmente, e che sono personaggi spesso complicati e geniali, come ammette la stessa Anna Magnani. Un'attrice, un attore, un artista è una cosa molto difficile da definire. Non so, qualcuno prima di me l'ha detto, sono degli egoisti, degli egocentrici, un po' esibizionisti, però guai se non ci fossero gli attori. Visconti prende una decisione. La passione per il grande schermo deve trasformarsi in qualcosa di più. Vuole agire, produrre, girare lui stesso. E così compra una cinepresa e realizza un film amatoriale a Milano. Ci mette tutto se stesso, ma non gli basta, non più. Adesso, man mano che entra con gli occhi, con la testa e con il cuore nel cinema, la sua si fa sempre più un'urgenza espressiva. Voglio raccontare storie di uomini vivi. Di uomini vivi nelle cose. Non voglio raccontare le cose per se stesse. Il cinema che mi interessa è un cinema antropomorfico. Il compito che più mi interessa è lavorare con gli attori, materiale umano con il quale si costruiscono questi uomini nuovi che devono avere una nuova realtà, la realtà dell'arte. Perché l'attore è prima di tutto un uomo, possiede qualità umane chiave e io voglio basarmi su quelle per costruire il suo personaggio. Voglio che uomo attore e uomo personaggio diventino la stessa cosa. Un pensiero molto lucido sul cinema, un'idea ben chiara che sta cercando di spiegare al tavolino di un bar del quartiere latino a una sua brillante amica francese. Le sue idee sul cinema si scontrano con la mancanza di mezzi e di possibilità. La sua amica lo ascolta con attenzione. È una donna raffinata, divertente, dal gusto eccentrico e impeccabile. Il suo nome è Gabrielle, ma da tutti è conosciuta come Coco Chanel. Coco Chanel. Qual è il suo nome? Mi chiamano tutti Coco. Stilista, designer, icona della moda che ha rivoluzionato il costume e il concetto stesso di femminilità, Coco Chanel si presenta da sola. Vi dirò questa cosa: amo il lusso. Il lusso non giace nella ricchezza e nel fasto, ma nell'assenza della volgarità. La volgarità è la più brutta parola della nostra lingua. Rimango in gioco per combatterla. Come un garçon, moi j'ai ma moto. Come un garçon, je fais du rodeo. C'est la terreur à 200 à l'heure. Come un garçon, come un garçon, je n'ai peur de rien. Come un garçon, moi j'ai des copains. Et dans la bande, c'est moi qui commande. Come un garçon, pourtant. Je ne suis qu'une fille, mais quand je suis avec toi. Il nome di Coco Chanel è divenuto nel tempo sinonimo di lusso, eleganza e stile, e la sua è una figura fondamentale nella cultura dell'intero Novecento. Ben prima del femminismo sessantottino e attraverso la leggerezza della moda, Coco ha voluto liberare la donna, ha voluto renderla indipendente dagli uomini. In mente aveva una donna rivoluzionaria e moderna, proprio come lei, e l'ha sempre ammesso senza mezzi termini. Un uomo può indossare ciò che vuole, ma resterà sempre un accessorio della donna. Coco Chanel si è messa al servizio della donna e le ha prestato la propria voce per renderla elegante senza l'obbligo della scomodità. Non è necessario stringersi il busto in corsetti che impediscono di camminare o sotto gonne tanto ingombranti da far fatica a sedersi. Si può essere signore raffinate anche nella libertà di movimento. Questo è ciò per cui ha lottato. L'ha voluto e ce l'ha fatta. È riuscita a rivoluzionare in pochi anni il panorama della moda francese perché fin da subito ha avuto le idee chiare. Quando fai qualcosa che funziona te ne accorgi perché tutti iniziano a copiarti. L'imitazione è importantissima perché non c'è successo senza imitazione. Carisma e determinazione sono i tratti distintivi del carattere di Coco, una talentuosa ragazza che ce l'ha fatta solo con le sue mani. Ora è seduta in un caffè davanti a un Luchino Visconti ancora giovane, pronta a dargli tutti i suoi consigli. Nata nel 1883 in una piccola cittadina sulle rive della Loira, vive un'infanzia molto umile e difficile. La madre muore presto di tubercolosi e il padre, venditore ambulante, è costretto a emigrare in cerca di lavoro, lasciando le sue figlie in un convento. Sono le suore che mi hanno insegnato a cucire, ma non era certo per passare il tempo. C'era la necessità di rammendare i vestiti rovinati perché non se ne potevano comprare degli altri. Il destino, però, la aspetta dietro l'angolo e ha le sembianze dell'amore. Coco, dopo aver lavorato in un negozio di stoffe per riuscire a mantenersi e dopo aver passato mesi a cantare canzonette per gli uomini ubriachi nei locali più malfamati di Parigi, diventa l'amante di Etienne Balsan, erede di una dinastia di industrie tessili. Non mi vergogno ad ammetterlo. Ho sfruttato le amicizie giuste. Non credo che ci sia niente di male. È stato solo un trampolino di lancio, perché ero certa che poi ce l'avrei fatta da sola. Io sapevo di avere idee e talento. Tutte le signore negli ambienti più facoltosi le chiedono dove abbia comprato i deliziosi cappellini che indossa sempre. E lei prontamente risponde la verità. Li fa da sola. Inizia così, come disegnatrice di cappelli, nel 1908, la carriera di Coco Chanel. E questa è la storia che è raccontata nel film Coco, l'amore prima del mito, interpretato nel 2008 dall'attrice francese Audrey Tautou, nota a tutti per essere stata Amélie. Che ne hai fatto del vestito che ti ho regalato? L'ho riappeso alla finestra. Mi sembrava di avere addosso le tue tende. Peccato, sembravi quasi una donna. Com'è elegante. Da lì in poi è tutto in discesa, perché Coco dimostra subito di avere un istinto in grado di prevedere e anticipare i gusti delle donne del suo tempo. Si sparge la voce e la sua fama cresce rapidamente. Apre il suo primo negozio a Deauville nel 1913 e un salone di moda a Biarritz nel 1915, iniziando anche alcune collaborazioni con i sarti parigini più affermati di quegli anni. Lo stile è nuovo e moderno, esalta una donna dinamica e priva di etichette e si identifica con una moda eterna, senza tempo. È lo stesso stile che si può vedere nelle vetrine del negozio di Rue Cambon 31 a Parigi, dagli anni 20 e ancora oggi. Il perché è contenuto in una delle memorabili frasi di Coco. La moda passa, lo stile resta. Un insegnamento per tutti i grandi stilisti di oggi, come il grande maestro Giorgio Armani. A volte questo mestiere è considerato un po' commerciale, in una parola, un po' troppo vicino al consumismo. In realtà ha una base di partenza, secondo me, che ha un fondo artistico. La creatività comunque è una forma d'arte, in ogni caso. Il 1921 è l'anno della consacrazione. Coco si lancia nel mercato della profumeria perché sente che i tradizionali profumi a base di fiori e muschio non hanno futuro. Determinata e consapevole come sempre, contatta il chimico Ernest Beau e gli commissiona la prima fragranza sintetica, in modo che si possa mantenere l'essenza molto più a lungo. Lui ne prepara una serie, la invita nel suo studio e allinea tutte le bottigliette numerate. Coco passeggia davanti a ognuna, annusa, valuta, ritorna per giorni e alla fine sceglie la numero 5. Non cambia neanche il nome alla bottiglietta. Uno shock, se si pensa ai nomi fantasiosi che avevano i profumi del tempo. Ma Coco è una donna che osa e si spinge ancora oltre quando decide che, mentre tutte le altre fragranze vengono messe in confezioni elaborate e decorate per attirare l'attenzione della clientela, la sua verrà messa in un semplicissimo parallelepipedo, Coco ancora una volta punta alla sostanza più che all'apparenza e il suo Chanel numero 5 diventa il profumo più venduto di tutti i tempi. Nessuno può rubarci il nostro sogno. Addio. E poi se ne andò. Destini incrociati. A Destini incrociati sono gli anni 30 e a Parigi due grandi amici stanno chiacchierando seduti all'aperto al tavolino di un caffè. Lui è un giovane italiano di famiglia aristocratica, si chiama Luchino Visconti e vuole diventare regista. Lei è Coco Chanel, la stilista modernissima indipendente che a partire da un tailleur ha rivoluzionato il modello stesso di femminilità. Nessun uomo ti farà sentire protetta e al sicuro quanto un cappotto di cashmere e un paio di occhiali neri. Visconti ha capito che il cinema per lui non può essere soltanto una passione di ragazzo e sta raccontando a Coco quella che è la sua urgenza. Parlare delle storie degli uomini attraverso la macchina da presa. Il più umile gesto dell'uomo, il suo passo, le sue esitazioni e i suoi impulsi da soli danno poesia e vibrazioni alle cose che li circondano e nelle quali si inquadrano. Il peso dell'essere umano, la sua presenza, è la sola cosa che veramente colma il fotogramma, perché l'ambiente è creato da lui, dalla sua presenza, dalle passioni che lo agitano. È questo che io voglio fare, mettere in scena la vita. Coco lo ascolta con attenzione, anche se ogni tanto il suo sguardo viene distratto da qualche passante. Se Coco scrolla la testa con disappunto, Luchino, che ormai la conosce bene, sa che è perché ha visto una donna troppo ingioiellata o eccessiva nella scelta degli abiti, in una parola, volgare. Troppe piume, troppo trucco, troppi fronzoli, troppo di tutto. Ma a un certo punto, mentre Luchino sta ancora parlando, Coco volta la testa di scatto, colta da un'illuminazione. Le viene in mente il suo amico, Jean Renoir. Grande regista, sceneggiatore, produttore e uomo dalla spiccata sensibilità artistica, d'altra parte è il secondogenito del pittore impressionista Pierre-Auguste Renoir, Jean è perfetto per insegnare a Luchino un mestiere. Qualche incontro, una chiacchierata e Coco convince Renoir a prendere quel ragazzo italiano così riflessivo ma inesperto sotto la sua ala protettrice. Per Visconti è la svolta del destino. Quello non era soltanto un favore da amica. Coco ha creduto in me e ha cambiato la mia esistenza. E grazie a lei si ho potuto realizzare il mio sogno, capire che il cinema era davvero la mia vita. Mi serve ancora per poter andare avanti. Avanti per sapere stessa, avanti con i piedi nudi, il voto in testa. Avanti per poter guidare in ogni istante almeno una risposta. Jean Renoir, grazie a Coco Chanel, diventa il mentore di Luchino Visconti. Luchino gli fa da assistente alla regia e ai costumi per la scampagnata e apprende tutti i trucchi del mestiere. A dirla tutta, è il terzo assistente. Prima di lui nella gerarchia vengono Becker e il grande fotografo Cartier-Bresson. Non è facile perché Renoir è rigido, esigente, ma l'esperienza è fondamentale per la sua formazione, perché è qui che viene influenzato profondamente dal realismo, lo stesso realismo che lo porterà a realizzare il suo primo film da solo, nel 1943, Ossessione, che per i critici rappresenta la rottura con il cinema italiano del passato e l'apertura al cinema neorealista. Renoir ha esercitato su di me un'enorme influenza. Si impara sempre da qualcuno, non si inventa mai niente. O forse si inventa, ma si è sempre terribilmente influenzati, soprattutto quando si lavora all'opera prima. Non è che Ossessione sia stato, come si dice, influenzato dal cinema francese in generale, ma è Renoir che mi ha insegnato il modo di lavorare con gli attori. Quel breve contatto di un mese è stato sufficiente, tanto la sua personalità mi aveva affascinato. Dopo Ossessione la strada è tutta in discesa. Visconti diventa uno dei più grandi registi italiani, stimato dal pubblico e dalla critica. Uno dei suoi più grandi pregi è quello di riuscire a realizzare un cinema alto, colto, ma che possa essere capito da tutti. La Terra Trema, Bellissima, Senso, Rocco e i suoi fratelli e Il Gatto Pardo sono solo alcuni dei suoi capolavori, quasi tutti scritti a quattro mani con l'inseparabile amica Suso Cecchi d'Amico. Con Luchino è tutto stato un po' speciale, perché diventammo subito molto amici, ma non ci siamo mai dati del tu. C'è stato sempre un rapporto, come dire, ufficiale. Se Visconti ha trovato la sua strada, è per merito di Coco Chanel. È stata questa donna piccola, brillante ed eccentrica che gli ha indicato la strada giusta per diventare regista. È stata lei la svolta del suo destino. Luchino questo non se lo dimentica mai. Coco è una delle mie amiche più care e mi ha cambiato la vita. La stessa energia e determinazione che ci ha messo per diventare qualcuno, ce l'ha messa perché io diventassi qualcuno. Non la ringrazierò mai abbastanza. E lei, dal canto suo, sta a guardare, godendosi il suo successo. Se tornasse indietro, sa che rifarebbe tutto, anche gli errori. A Parigi non si perde un film del suo Luchino, un po' amico, un po' fratello minore. È un'icona ormai. Ha cambiato il costume del mondo e ha cambiato lo spirito di un tempo. È riuscita a diventare immortale. Se sei nato senza ali, non fare nulla per impedire loro di crescere. J'ai pas mal au foie, personne fait plus ça. J'ai un nul cerf, c'est moins banal et plus cher. Je suis snob, c'est bat. Je m'appelle Patrick, mais on dit Bob. Je fais du cheval tous les matins, car j'adore l'odeur du crottin. Je ne fréquente que des baronnes, au nom comme des trombones. Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.